cavaliere, cavaliere, cavaliere, cavaliere, cavaliere, cavaliere, cavaliere, cavaliere, cavaliere, cavaliere, cavaliere, cavaliere, cavaliere, cavaliere, cavaliere, cavaliere. Giù da me da mesi si vive vendendo live interattive di noccioli geneticamente prive. D'estate ragazzine schive hanno le zine accennate ma fanno le dive con vestitini carini, nei camerini non le distingui da manichini, ma sono vive. Bush, Saddam, Arafat, Sharon, la nuova collezione Benetton. Vi auguro una vita elettrizzante, fulminate dalla corrente di un phon. Ma che futuro come Trump, siamo ancora Flintstones. Accidenti, l'Occidente ha vinto, l'uomo verace del sud è estinto. Ora il conto è tinto. Non ti siedi, resti in piedi. Giù, giù, giù, giù, giù da me. E se non ci credi, tieni. Giù, giù, giù, giù, giù da me. Inutile che ti dimeni. Giù, giù, giù, giù, giù da me. E giù, giù, giù da su, giù, su da ruda e cruda, giù da me. Non ci sta la fatica, ma c'è chi dice sica. Mica, vado in una fabbrica. Andateci voi dalla mentalità antica. Io firmo per la liberalizzazione della fica. Chi fica testa che questa è la vita? Cavaliere, chi te lo spiega che non siamo in gita? Cavaliere, e c'è chi se ne va, c'è chi resterà. Sempre c'è chi prende, ma non sempre c'è chi dà. E il politico di turno ci fa il suo bla bla bla. Su mezzogiorno già, crede che qua si sta su Marte. Prego per andare a fanculo da quella parte. Come dei giri ti si chiudono le porte, ma se appartieni a quelli della corte sei forte. Gli altri sì, sono fatti da parte, mentre i fatti da parte ancora muovono gli arti. Non ti siedi, resti in piedi. Giù, giù, giù, giù, giù da me. E se non ci credi, vieni. Giù, giù, giù, giù, giù da me. È inutile che ti dimeni. Giù, giù, giù, giù, giù da me. E giù, giù, giù da su, giù, su da ruta e cruda, giù da me. La realtà giù da me è una realtà virtuale. Come ho la netta sensazione che tutto si dissolva in una bolla di sapone. La chiamano emancipazione, quella di farsi le lampade nel meridione, quella di farsi le barche, quella di farsi le marche, quella di farsi può darsi sia la soluzione. Io mi faccio con dosi di insolazione, stico ossigeno liberato da foglie buone. Calo le pillole di saggezza che non indica parezza, spacciano senza timore. Sto su nel su che su di me, del sud io sono su cube, or su dove sto su dai me, Hollywood giù da me. Non ti siedi, resti in piedi. Giù, giù, giù, giù, giù da me. E se non ci credi, vieni. Giù, giù, giù, giù, giù da me. Inutile che ti dimeni. Giù, giù, giù, giù, giù da me. E giù, giù, giù da su, giù, su da ruda e cruda, giù da me. Non ti siedi, resti in piedi. Giù, giù, giù, giù, giù da me. E se non ci credi, vieni. Giù, giù, giù, giù, giù da me. E inutile che ti dimeni. Giù, giù, giù, giù, giù da me. E giù, giù, giù da su, giù, su da ruda e cruda, giù da me. Cavaliere, cavaliere, cavaliere, cavaliere, cavaliere, cavaliere, cavaliere, cavaliere, cavaliere, cavaliere, cavaliere, cavaliere, cavaliere, cavaliere, cavaliere, cavaliere, cavaliere, cavaliere, cavaliere, cavaliere, cavaliere, cavaliere, cavaliere, cavaliere, cavaliere, cavaliere, cavaliere, cavaliere.